ma che fortuna che ho, io sono vivo. Io sono vivo, io sono vivo, ma che fortuna che ho, io sono vivo, ma che fortuna che ho, io sono vivo, e viva la vita, se questa è felice. Viva la vita che discorre lenta e non vuol finire. E viva la vita quando ti bacia la fronte e ti accarezza la nuca e poi ti sorride. Che fortuna che ho, io sono viva, io sono viva, io sono viva. Ma che fortuna che ho, io sono viva, io sono viva, io sono. Viva la vita, se questa è felice. Viva la vita che ti scorre lenta e non vuole finire. E viva la vita quando ti bacia la fronte e ti accarezza la nuca e poi ti sorride. Ma che fortuna che ho, io sono viva, io sono viva, io sono viva.